Europa 24. Quale Parlamento europeo si prepara nei prossimi 5 anni di legislatura? Buongiorno da Sergio Nava. Oggi a Europa 24 andiamo a indagare le priorità degli eurodeputati italiani che siedono alla plenaria di Strasburgo. Ai nostri microfoni Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento europeo, membro di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo. Tajani è stato fino alla fine di giugno vicepresidente della Commissione europea, dove è stato responsabile per il portafoglio industria. Continuerò a lavorare con incarico istituzionale, ma anche nelle commissioni parlamentari dove sarò, quella industria e quella economica. Ci sono da continuare battaglie per dare all'Europa una vera politica industriale, perché non si esce dalla crisi se accanto al fiscal compact non c'è un vero industrial compact, quindi vale a dire una strategia come abbiamo voluto quando era la Commissione europea, come ha accettato anche il Consiglio che ha approvato le nostre proposte, quindi bisogna lavorare per implementare questa decisione, mettere al centro l'economia reale, lavorare perché vengano ben investiti 150 miliardi di euro che abbiamo messo a disposizione del bilancio comunitario per la crescita e per l'industria, e quindi l'impegno sarà soprattutto per cercare di dare buone norme all'Europa perché si possa uscire definitivamente dalla crisi. Cercherà dal Parlamento di proseguire il piano di, come dire, rinascita industriale che avevate lanciato a febbraio, di crescita basata proprio sul rilancio dell'industria, avete lanciato come commissione a febbraio. Da febbraio ad oggi cos'è cambiato? A marzo il Consiglio europeo ha approvato le proposte della Commissione europea, la strategia della Commissione europea, quindi si sta andando avanti, non si parla più di deindustrializzazione dell'Europa, non si parla più di deserto industriale, ma si parla sempre più di nuova politica industriale, di economia reale, di piccole e medie imprese, di crescita. Ora bisogna continuare a lavorare perché il patto di stabilità sia interpretato con flessibilità, come eravamo riusciti a fare in occasione della decisione mia e di Olli Rehn di rendere flessibile il patto, considerando fattore attenuante il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Quindi su questo è sostanzialmente sulla linea del governo italiano, sulla linea di Renzi, mi sembra di capire. Ma forse il governo Renzi che ha seguito la linea che avevamo avviato nella Commissione, no? A parte le battute, il governo Renzi lavora per un'interpretazione del patto di stabilità che sia flessibile, ma è come è sempre stato, ma per ottenere la flessibilità bisogna anche avere dei buoni risultati, soprattutto dar vita a riforme interessanti e importanti. Lei parla appunto di politiche industriali, l'Italia sta molto spingendo invece sulla tema flessibilità all'interno del patto. Come vede questi 6 mesi che si aprono di presidenza italiana? La vede una presidenza di transizione oppure qualche risultato si può portare a casa? No, è una presidenza come tutte le altre, non bisogna caricarla di aspettative, né si può pensare che la presidenza italiana risolva i problemi, è una presidenza di turno. Mi auguro che la presidenza italiana sia in grado di portare a casa un voto positivo da parte del Consiglio sulla proposta della Commissione europea approvata a larga maggioranza dal Parlamento europeo per introdurre finalmente la tracciabilità dei prodotti, il famoso Made In, e mi auguro che la presidenza italiana sia in grado anche di portare a termine il lavoro che aveva avviato per rendere più flessibili i visti d'ingresso in Europa nella zona Schengen per turisti extraeuropei prima dell'inizio dell'Expo 2015. Lei è stato attaccato per la procedura di infrazione che ha aperto poco prima di lasciare la Commissione europea. Si aspetta che questa procedura acceleri effettivamente i tempi di pagamento? L'obiettivo è quello, sono lieto se mi attaccano quando faccio delle cose giuste, il problema è quando uno fa delle cose ingiuste. Io ho lavorato nell'interesse dei cittadini, nell'interesse delle imprese per difendere il diritto europeo e anche per difendere il diritto italiano, visto che la direttiva europea sul ritardo dei pagamenti dal 1 gennaio del 2013 è legge della Repubblica, e le leggi della Repubblica vanno rispettate anche dallo Stato, anche dall'amministrazione pubblica. Forza Italia ha fatto una campagna europea con una sottotraccia abbastanza, se vogliamo, euroscettica, tanto ci sono state frizioni anche all'interno del PPE. La sua personale linea e la linea del suo gruppo sarà aderente alla strategia politica del PPE o porterete avanti una strategia, definiamola pure un po', euroscettica? Ma noi siamo parte del PPE e stiamo nel PPE non perché condividiamo tutte le scelte che fanno alcuni partiti che sono nel PPE. Siamo nel PPE perché noi ci riconosciamo nei valori della famiglia del Partito Popolare Europeo. Poi non siamo euroscettici, siamo critici nei confronti di questa Europa che non ci piace. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24. Ancora un saluto e un augurio di buona giornata da Sergio Nava. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.